Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Ritratto di Camillo Benso, conte di Cavour. Camillo Benso di Cavour, lo statista regista dell'Italia Unita che unificò il centro-nord grazie a Napoleone III e si prese il sud dalle mani dell'odiato Garibaldi, che fu protagonista di trame politiche da romanzo ma giocò la partita più delicata in Parlamento tra trattative e memorabili discorsi. Amava le donne e la tavola, e questo si sa, ma soprattutto capiva e come di politica ed economia, e sfruttò finanze, diplomazia ed esercito per dare corpo alle speranze della sua generazione. Realismo al servizio dell'idealismo di un uomo impetuoso. Mitico l'episodio del luglio 859 dell'armistizio che dava ai piemontesi la sola Lombardia. Cavour invitò il re a non firmare, piuttosto ad abdicare. Vittorio Emanuele rispose: ci devo pensare io che sono il re. E Cavour, gonfio d'ira: il re ora sono io. Vittorio di rimando: lei il re, lei è uno sfacciato. Il giorno dopo Cavour si dimetteva, offesissimo. Dopo soli 5 mesi Vittorio Emanuele, che stupido non era, ingoiò il rospo e lo richiamò al governo. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore.